Mix 24. La storia. Mi è arrivato un invito che diceva: la signoria vostra è invitata ad Ellis Island il prossimo 4 luglio per celebrare il 100° compleanno di un famoso simbolo americano. Beh, è evidente che qualcuno si è sbagliato. Il mio compleanno è in febbraio. Ronald Reagan, il 40° presidente degli Stati Uniti, un modesto attore di Hollywood che è diventato il grande comunicatore, il nemico dell'impero del male, l'incarnazione di un'America forte e intransigente, cioè colui che ha riscattato dalla vergogna del Vietnam e del Watergate gli Stati Uniti. Due volte governatore della California, due volte presidente degli Stati Uniti, l'uomo delle guerre stellari e delle Reaganomics. Ronald Reagan è morto il 5 giugno del 2004 a 93 anni. La sua è un'avventura umana e politica che sembra incarnare alla perfezione il sogno americano. Ronald Reagan nasce il 6 febbraio 1911 nella strada principale, ma anche unica, di Tampico, Illinois. La sua famiglia è talmente povera che in occasione di una sua visita ai luoghi natii, il presidente sembrerà quasi infastidito. Il padre, Jack, un ciabattino alcolista, conduce una vita di stenti, sperando in un colpo di fortuna. Dall'età di 4 anni, Dutch, come i suoi genitori amavano chiamarlo, vive come un nomade. Reagan parla molto di rado della sua infanzia difficile. In una di queste sporadiche occasioni la definisce come un periodo idilliaco alla Tom Sawyer, fatto di foreste e misteri, di vita e di morte, di piccole creature, di caccia e di pesca. È stato allora che ho imparato il valore delle cose più piccole. Quando alla fine la famiglia si stabilisce a Dixon, nell'Illinois, Ronnie ha 9 anni. Con i suoi 8.000 abitanti, Dixon è l'essenza dell'America di provincia. Gli anni 20 sono un tempo di cambiamenti e grandi opportunità, anche per il padre di Ronald. Jack Reagan può aprire un negozio di scarpe tutto suo, il Fashion Boot Shop. Ma Jack ha un punto debole che Ronnie conosce bene, anche se fa finta di niente. Anni dopo dirà: avevo 11 anni quando per la prima volta tornai a casa e trovai mio padre per terra, nel portico, completamente ubriaco e con i capelli immersi nella neve. Mi chinai su di lui e sentii un forte odore di whisky. A fatica riuscì a trascinarlo dentro casa e portarlo a letto. La madre di Ronnie, Nell, una donna molto devota alla Chiesa Cattolica, diviene il suo riferimento morale. Con il suo aiuto, il giovane comincia a dare un indirizzo alla propria vita. Lou Cannon, biografo di Reagan, così descrive il ruolo della figura materna. La madre gli trasmise un senso del destino che giocò un ruolo determinante in tutta la sua esistenza. Se sei certo che il tuo destino è quello di essere un grande uomo, non c'è fretta. Prima o poi la tua occasione arriverà. Ronald Reagan è ricordato da tutti come un attore, un governatore ed un presidente. Ma è sulle rive del fiume Rock che egli scopre la sua vocazione. Nei 6 anni in cui lavora come bagnino presso il fiume Rock, salverà la vita a 77 persone. Reagan si laurea nel 1932 al culmine della Grande Depressione, ma impiega solo 6 settimane a trovare un lavoro alla WOC Radio. Poco dopo è a Des Moines, nell'Iowa, dove lavora come radiocronista sportivo. La vita sembra sorridere a Ronald Reagan, ha soldi, indipendenza e perfino tempo per imparare a cavalcare. Per 4 estati, utilizzando solo i dati che gli arrivavano via telegrafo, grazie a una spiccata capacità evocativa, Reagan si afferma come radiocronista, riuscendo a portare i suoi ascoltatori sulle gradinate di quegli stadi di baseball dove in realtà lui non ha mai messo piede. A raccontarcelo è Lou Cannon, il suo biografo. Reagan era un maestro della comunicazione, ma il campo in cui eccelleva era proprio la radio. Se guardiamo la sua carriera, sia come attore che come presidente, ma anche come radiocronista, beh, non credo ci sia dubbio che sia stato un grande evocatore, se mi consentite la parola. Reagan era in grado di evocare qualunque tipo di emozione. 1937. Reagan, che sogna da tempo di diventare un attore, approda finalmente a Hollywood. Così ricorda la sua prima giornata di lavoro sul set del film Love is on the Air. Ero circondato da un muro di luce. Mi dava una strana sensazione di riservatezza che mi è servita a liberarmi subito di qualunque ansia mi sentissi addosso. Ronald Reagan farà più di 50 film. A Hollywood Reagan diventa una stella del botteghino, guadagna molto bene e lavora senza sosta. Ma cosa evocava Reagan? Lo spiega Edwin Meese, capo staff di Reagan negli anni 70. Ronald Reagan era il simbolo della Middle America. Erano gli anni in cui Hollywood voleva che i suoi film facessero sentire bene il pubblico. E Reagan era l'attore perfetto per questo genere. Ecco perché ebbe così successo. Con il film Newt Rockne All-American, Reagan ha la sua prima parte da protagonista nel ruolo di George Gipp, una leggenda del football americano. Proprio grazie a questo film, Reagan viene soprannominato The Gipper. All right, if you insist. Now, wait a minute. What's your name? Gipp. George Gipp. What's yours? Is he kidding me? Ma la vera affermazione per lui arriva con il film Delitti senza castigo, King's Row. Randy? Where's the rest of me? Randy? La pellicola esce negli Stati Uniti il 2 febbraio del 42. L'America è già in guerra. Anche Ronald Reagan combatte, ma solo per finta, sul grande schermo, prendendo parte ai film didattici per le forze armate girati a Calvert City, a una decina di chilometri da casa sua. Ripartiamo da qui, dopo la viabilità. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24 con la storia di Ronald Reagan e della sua ascesa da attore a presidente degli Stati Uniti. Hollywood, con i suoi film di propaganda, diventa importantissima negli anni della Seconda Guerra Mondiale per sostenere lo sforzo bellico. Poi naturalmente tutto cambia. La fine della guerra vede il mondo diviso secondo i nuovi equilibri di Yalta. In America siamo alla vigilia del maccartismo, la grande caccia alle streghe contro il pericolo comunista. Ma Ronald Reagan, nell'immediato dopoguerra, è ancora un democratico attento ai temi sociali. Ho aderito a qualsiasi organizzazione che lottasse per la salvezza del mondo. Come democratico liberale, Reagan interviene spesso su qualunque argomento, dai rischi dell'atomica all'uguaglianza razziale. Ancora Lou Cannon. Reagan fu molto attivo in alcune organizzazioni di sinistra che i comunisti cercavano di controllare. I comunisti capivano l'importanza di Hollywood. Reagan da principio non credeva all'idea di un pericolo rosso. Quando invece si rese conto che quel pericolo era reale, divenne un anticomunista viscerale, quasi esagerato. Reagan si confronta per la prima volta con il comunismo nel 1946 e in qualità di membro del sindacato degli attori, la Screen Actors Guild, gli viene chiesto di fare da paciere in una disputa tra due organizzazioni. Reagan dichiara: la leadership non vuole un accordo, intende solo perseguire i propri fini con i disordini e i disturbi di ogni tipo. Reagan amava l'ordine, la disciplina, la stabilità. Il fatto che membri del sindacato prendessero parte ad azioni violente, in particolare all'ingresso dei teatri di posa, con autobus rivoltati, finestre distrutte, sassaiole e spargimenti di sangue, lo sconvolgeva. Da quel momento si allontanò definitivamente da quello che definiva il dominio rosso del sindacato. Era la voce di Edmund Morris, biografo di Reagan. Reagan viene definito un fascista. Al telefono una voce anonima minaccia di sfigurargli il volto e di rovinare per sempre la sua carriera di attore. Reagan è costretto a girare armato. Così scriveva nel suo diario lo stesso Reagan e poi ascoltiamo lo storico Robert Dallek. Da quel momento capii sulla mia pelle quali fossero i metodi dei comunisti. L'espansione dell'impero sovietico si basava esclusivamente sulla menzogna, l'inganno e la violenza. Reagan in quel momento diviene l'eroe solitario che combatte contro il comunismo. Anzi, non solo combatte contro il comunismo, ma vuole anche salvare la Screen Actors Guild, vuole salvare Hollywood, vuole liberare l'intero paese dalla minaccia comunista. Reagan diviene un informatore dell'FBI. Nel 1947, in qualità di presidente della Screen Actors Guild, testimonia come persona informata dei fatti di fronte alla Commissione per le attività anti-americane. Voglio essere franco con voi. Come cittadino americano, non vorrei mai che un partito venisse dichiarato fuori legge sulla base della propria ideologia politica. Tuttavia, laddove si è dimostrato che una determinata organizzazione agisce per conto di una potenza estera, o che non ha legittimità politica, e sono certo che il governo sia in grado di stabilire ciò, beh, se come dicevo questo è dimostrato, allora la questione cambia. 10 fra sceneggiatori e registi finiscono in prigione, non perché comunisti, bensì perché si sono rifiutati di collaborare con la commissione. In tutto, 320 persone finiscono nella cosiddetta lista nera. Da quel momento non trovano più lavoro a Hollywood. Anche Reagan fu uno di quelli che stilarono la lista nera. Non voglio dire che abbia più colpe di altri, in fondo ha agito come molti altri. Anzi, lo fece più malvolentieri di molti altri. Ma il fatto è che la lista nera è stata stilata ed è una vergogna per la nostra storia. Autunno 1951, Ronald Reagan incontra Nancy Davis, un'attrice sotto contratto con la Metro-Goldwyn-Mayer. Benestante, molto introdotta in società, Nancy ha in comune con Ronald un'infanzia infelice ed incerta. Abbandonata dal padre, è stata affidata alle cure della zia, mentre la madre, anch'essa attrice, gira il paese in tournée. Quando Nancy ha 8 anni, sua madre sposa un ricco chirurgo di Chicago, Loyal Davis. Nancy scopre un mondo di privilegi e agiatezza. Nel 1949, inserita per sbaglio in una lista di attori comunisti, Nancy chiede aiuto a Reagan per chiarire la sua posizione. Il 4 marzo 1952 i due si sposano. Reagan, come presidente della Screen Actors Guild, il sindacato degli attori, si guadagna la fama di duro e abile negoziatore, pronto a sfidare gli interessi delle majors e dei produttori. Come attore, la sua carriera è in rapido declino. Nei primi anni 50 ricopre ruoli insulsi in film insignificanti, quali La regina del Far West. E recita al fianco di uno scimpanzé in Bonzo, la scimmia sapiente. A fianco di Nancy interpreta Le pantere dei mari, un disastro totale. Fu un periodo molto duro per lui. Credo che fosse davvero a terra. Non riusciva a capire come mai quella carriera che lui amava così tanto e a cui aveva dedicato tante energie gli stesse sfuggendo dalle mani. 1954. La General Electric offre a Reagan un contratto per condurre una serie televisiva settimanale, il GE Theater. Il suo stipendio annuale è di $125,000. In research, in engineering. Ormai ricco, può finalmente offrire alla sua famiglia il California Dream, il sogno della California. Mio padre ha sempre sognato di possedere un ranch. Ed è stato lì che abbiamo trascorso la maggior parte del tempo con lui. Ho dei bellissimi ricordi di quando eravamo al ranch con papà. Cercavo sempre di sfidarlo dal punto di vista atletico. Anche perché era un modo per trascorrere tempo con lui. Sia io che mio fratello imparammo a nuotare prima ancora che a camminare. Mio padre aveva fatto il bagnino ed era convinto che chi sa nuotare saprà sempre come cavarsela nella vita. Come testimonial della General Electric, Reagan gira tutti gli Stati Uniti. Dopo 17 anni a Hollywood, riscopre la vera America. Quel ruolo era perfetto per Reagan. Girava il paese e incontrava la gente. Si intratteneva con chiunque, parlando di cose che nessuno avrebbe mai saputo se non leggendole su qualche giornaletto locale. Per lui fu una sorta di apprendistato che lui riuscì a sfruttare al meglio. Reagan, insomma, ha trovato una nuova missione, la politica. e da questo momento la sua battaglia sarà contro il pericolo rosso. Con lo zelo tipico del convertito, Reagan diventa un acclamato portavoce dell'ala più conservatrice del Partito Repubblicano. Il 27 ottobre del 64, in un dibattito televisivo a favore di Barry Goldwater, il candidato repubblicano alla Casa Bianca di quelle elezioni, Reagan debutta ufficialmente in politica. Proprio durante questo dibattito Reagan pronuncia uno dei suoi discorsi diventati più famosi. L'ora della scelta. È nato il grande comunicatore. Signore e signori, è con piacere che ascolteremo ora l'intervento di Ronald Reagan. Signor Reagan. Mr. Reagan. Thank you. Thank you very much. Ho passato tutta la prima parte della mia vita sentendomi democratico. Poi però ho capito che era il partito sbagliato. Davanti a noi abbiamo un'importante questione. Crediamo ancora nella capacità di autogovernarci o abiuriamo i principi ispiratori della rivoluzione americana? Vogliamo forse delegare a un'elite di intellettuali che vivono a migliaia di chilometri da noi il potere di progettare le nostre vite? Il settimanale Time definisce il discorso di Reagan l'unico bagliore in una campagna oscura e buia. Goldwater viene sconfitto, ma Reagan è ormai una figura di spicco tra i politici conservatori. Con il suo attacco al centralismo del governo, Reagan attira l'interesse dei conservatori della California, che per le elezioni del 1966 hanno bisogno di un candidato per la carica di governatore. Sono giunto ad una decisione che ancora pochi mesi fa non avrei mai immaginato possibile. Ma ho imboccato questa strada senza esitazione e sono pronto a lottare per la candidatura a governatore per il Partito Repubblicano. Ha mai pensato che molte donne potrebbero essere influenzate nel voto perché lei è stata una star del cinema, è giovane e di bell'aspetto? Beh, dobbiamo decidere se essere stato una star del cinema sia un vantaggio o no. Prima che io decidessi di intraprendere la carriera politica, molti mi dicevano che non ero presentabile proprio perché avevo fatto del cinema. Insomma, decidiamoci. In ogni modo, io sono convinto che la gente voti essendo cosciente di quello che fa. Le sue parole toccano il nervo scoperto di milioni di persone che in California non ne possono più delle tasse in costante ascesa, del welfare, del movimento studentesco, della criminalità per le strade, degli attentati. È proprio su questa insoddisfazione collettiva che Reagan fa leva per conquistare voti in tutta la California. Era lo storico Robert Dallek. Reagan guadagna sempre maggiore visibilità. Ora il suo staff si occupa della sua immagine. Reagan incarna perfettamente il mito del vecchio West, il cowboy solitario e sicuro di sé. Ancora Robert Dallek. Reagan era perfetto nel personaggio della figura eroica, slanciata, dal volto duro, sempre pronto a venire in tuo soccorso. Tutti vedevano in lui l'uomo onesto, il politico onesto, uno che parlava chiaro. Questa infima minoranza di hippies, di avvocati delle cause perse che seminano zizzania, hanno interferito con gli scopi primari dell'Università di Berkeley, infangando una grande istituzione, un'università della quale tutti noi andiamo e siamo andati fieri per anni. La gente di questo Stato ha tutto il diritto di ottenere che venga aperta un'inchiesta perché sia fatta luce su cosa è realmente successo e per punire i colpevoli. Il 2 gennaio del 67 Reagan si insedia come governatore dello Stato della California, ha battuto il candidato democratico di quasi 1 milione di voti, una vittoria schiacciante contro il suo avversario democratico. Ronald Reagan diventa così governatore della California. È il 1967, la guerra in Vietnam, la contestazione nei campus, la difficile situazione economica. Reagan ha per le mani una situazione in realtà esplosiva. E lui, dopo tutto, è solo un ex attore di Hollywood. Ripartiamo da qui, dopo la pubblicità. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix24. Con poca esperienza politica alle spalle, Ronald Reagan nel 67 diventa governatore e ha la responsabilità di uno Stato come la California. Quando un giornalista gli chiede che tipo di governatore intende essere, Reagan risponde così. Non lo so, non ho mai interpretato il ruolo di governatore. Si trattava di un compito improbo. Reagan non sapeva proprio nulla di politica né di governo. Per giunta era contornato da persone che ne sapevano addirittura meno. Ricordo ancora una frase di Lynn Nofziger. Caro Lou, mi disse, non siamo solo dei dilettanti, ma siamo dei dilettanti alla loro prima esperienza. Era Lou Cannon, biografo di Reagan. La prima decisione di Reagan, che mira a ridimensionare l'amministrazione, si rivela subito un fallimento. Ce ne parla William Oak, membro dello staff di Reagan. Nella sua ingenuità, Reagan prese una decisione bizzarra. Voleva ridurre a tutti i costi le spese del 10% e pensava di poterlo fare senza troppe difficoltà. Ben presto però si rese conto che era un'impresa impossibile, oltre che una decisione iniqua. L'annuncio dei tagli coincide con l'apice della contestazione studentesca nei campus. Il piano di Reagan prevede che per la prima volta gli universitari debbano pagare una tassa di iscrizione. All'indomani dell'annuncio, gli studenti californiani scendono in piazza contro il loro governatore. Dopo aver interpretato per tanti anni il ruolo dell'eroe, d'improvviso Reagan si trova ad essere il cattivo. Reagan ha stretto un patto con tutti quegli americani che non sopportano più il radicalismo degli anni 60. Agosto 1968. Alla convention repubblicana di Miami circola un solo nome, Ronald Reagan. Dopo solo 18 mesi da governatore, è lui il candidato dei conservatori per la Casa Bianca. Quando lo sentii nel 64 a sostegno di Goldwater, mi dissi, ecco chi dovrebbe candidarsi. Lui sì che è l'uomo giusto per diventare presidente. Ma il candidato naturale per i repubblicani è l'ex vicepresidente Richard Nixon. Sentiamo le parole di Reagan nel discorso alla convention repubblicana di Miami. È il 5 agosto del 1968. È con orgoglio che prendo la parola a nome dei miei amici californiani. E a nome di tutti dichiaro che questa convention si schiera unanimemente per la candidatura di Richard Nixon quale prossimo presidente degli Stati Uniti. Reagan la prese bene, mi disse. Lynn, ti dirò, io non mi sentivo affatto pronto. Insomma, era il primo a conoscere i propri limiti. Se ci fosse stata una richiesta unanime, avrebbe accettato. Reagan torna in California per far fronte alla prima vera crisi del suo mandato. Nella primavera del 69, la rivolta studentesca a Berkeley, iniziata nel 1964, raggiunge il suo culmine. L'università è paralizzata dagli scioperi. Agli studenti si uniscono anche le Pantere Nere e perfino alcuni professori. La polizia non riesce a fermare lo sciopero. Reagan allora decide di inviare le pattuglie della polizia stradale. La sua decisione non fa che aumentare la tensione. 15 maggio 1969, a Berkeley arriva la Guardia Nazionale, armata di baionette, che occupa l'intera città per 17 giorni. La maggior parte dei californiani guarda Reagan come un eroe in grado di ristabilire l'ordine. Con la repressione della contestazione studentesca, Reagan si guadagna la fama di politico duro e intransigente. Ma quella carica della polizia molti americani non gliela perdonerà mai. È il 1970, la California si prepara ad eleggere il nuovo governatore dello Stato. Reagan aspira a un secondo mandato, ma molte delle sue promesse, come abbassare le tasse e attuare il decentramento amministrativo, in realtà sono rimaste solo parole, promesse. Eppure gli elettori gli danno di nuovo fiducia. Novembre 1970, Reagan riesce nuovamente a vincere. Per prima cosa ribadisce la sua intenzione di tagliare le spese del governo. Nel suo primo mandato, Reagan ha governato con il pugno di ferro. Ora, invece, con uno Stato controllato dai democratici, deve cercare la collaborazione. Solo così può far passare la sua proposta sul welfare. La legge passa. Reagan fa risparmiare ai contribuenti 2 miliardi di dollari. Soprattutto, però, ha imparato una lezione importante. Reagan dimostrò innanzitutto a se stesso che poteva cambiare le cose ed ottenere dei risultati. Insomma, che poteva non solo chiedere ad altri di fare, ma che lui stesso poteva muovere i meccanismi del governo e raggiungere obiettivi importanti. In quel periodo acquisì una grande fiducia in se stesso, una fiducia molto più importante di quanto si possa credere. Tutto questo creò interesse attorno a lui e suscitò molta curiosità nel paese e tanti iniziarono a pensare che sarebbe stato il presidente adatto per il futuro. Nella corsa per la nomination repubblicana Reagan trova molti ostacoli, anche all'interno del partito. Il suo sfidante è il presidente Gerald Ford. Reagan perde nel New Hampshire e poi anche in altri stati. Martin Anderson, consigliere di Reagan. Beh, molti di noi ci chiedevamo, ma non sarebbe meglio mollare? Abbiamo ancora qualche chance? Credo che lo pensassero un po' tutti. Ne discutemmo e convenimmo che sarebbe stato meglio lasciar perdere. Reagan era lì seduto ed ascoltava. Poi prese la parola, ci guardò negli occhi e disse: ascoltatemi bene, continuerò fino all'ultima elezione, anche se dovessi perderle tutte una dopo l'altra. Reagan punta tutto su una politica che metta al primo posto difesa e riduzione dell'intervento governativo. La sua promessa, riportare l'America alla sua grandezza. Cari concittadini di questa grande nazione, consapevole di quale responsabilità implichi, è con grande gioia che accetto la vostra scelta di candidare me come prossimo presidente degli Stati Uniti. La campagna elettorale d'autunno di Reagan parte a Jersey City, sullo sfondo di un grande simbolo americano, la Statua della Libertà. Reagan si rivolge a un pubblico interamente formato da operai, fa appello al loro patriottismo, ma anche al loro crescente senso di insicurezza. Queste le sue parole nel discorso di apertura della campagna elettorale e poi quelle di Martin Anderson, consigliere di Reagan. Quando il tuo vicino perde il lavoro, è recessione. Quando a perderlo sei tu, è la Grande Depressione. Ma quando a perderlo sarà Jimmy Carter, quella sarà la ripresa. L'inflazione era spaventosa. I tassi di interesse crescevano a vista d'occhio. La gente non riusciva a comprarsi una casa propria. Tanti americani ricordano ancora che in quegli anni c'erano addirittura difficoltà per trovare la benzina per l'auto. E non solo per una questione di soldi. Avevamo degli americani ostaggi in Iran. Novembre 1980. 52 diplomatici americani sono tenuti in ostaggio nell'ambasciata di Teheran da oltre un anno. Da oltre un anno gli americani si svegliano ogni mattina consapevoli della propria impotenza e della inettitudine di Jimmy Carter nel gestire la crisi. Una situazione così è un'umiliazione per tutto il paese. In piena crisi economica, umiliata dall'Iran di Khomeini, l'America non crede più a Jimmy Carter. Il 4 novembre del 1980, dopo aver vinto in 44 stati su 50, Ronald Reagan diventa il 40esimo presidente degli Stati Uniti. I, Ronald Reagan, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Gennaio 1981. Ronald Reagan si insedia alla Casa Bianca. You ought to know, for haven't we told you so a million or more times? James Baker, capo dello staff della Casa Bianca, esperto navigatore a Washington. Edwin Meese e Michael Deaver, amici di Reagan dai tempi di Sacramento. Sono loro gli uomini chiave della nuova amministrazione. La Troica, come viene chiamata, ha carta bianca su moltissime questioni. Uno dei primi giorni, durante una riunione, presi la parola e dissi: sia ben chiaro che nei primi 100 giorni avremo solo 3 priorità: ripresa economica, ripresa economica e ripresa economica. Non voglio sentire parlare d'altro. La strategia del nuovo presidente passerà alla storia come la rivoluzione di Reagan. Sembra l'uovo di Colombo. Riduzione delle tasse, riduzione delle spese interne e un bilancio in pareggio. Per prima cosa dobbiamo riconoscere che siamo ad un bivio. Siamo minacciati da una recessione economica di proporzioni enormi e la gestione fin qui adottata non riuscirà a salvarci. Dobbiamo iniziare tutti insieme un nuovo corso. Il 18 febbraio presenterò nei dettagli il programma economico al Congresso. Prevediamo tagli sostanziali praticamente in ogni dipartimento del governo. I tagli principali riguardano le spese a favore delle classi meno abbienti. Reagan chiede di tagliare le tasse del 30%, anche se la misura vale per tutti i contribuenti, a trarne i maggiori benefici sarebbero naturalmente i più ricchi. Per ottenere l'approvazione della sua finanziaria, Reagan sfodera come sempre la sua arma migliore, la forza di persuasione. Ancora la figlia Maureen e poi Michael Deaver, uno dei suoi più stretti collaboratori. Se per trasportare questa capacità presa sul set, in politica, per comunicare con le persone, per far leva sui membri del Congresso e sulla gente. Avevamo capito che bastava mettergli una telecamera davanti e lasciarlo parlare. Reagan era un oratore straordinario e parlava in un modo che gli americani capivano e che li portava a fidarsi di lui. Dava voce alle loro frustrazioni, alle loro speranze e alle loro paure, dando loro al tempo stesso una visione del futuro. 2/3 degli americani si dichiarano a favore del programma di Reagan, specialmente per ciò che riguarda la riduzione delle tasse. Ma a breve la vita di Reagan sarà messa in pericolo, ne parliamo subito dopo la viabilità. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Il 30 marzo dell'81 Reagan presenzia una convention sindacale presso l'Hotel Hilton di Washington. Alle 14:25 il presidente lascia l'incontro e si avvicina alla sua limousine. John Hinckley, un giovane squilibrato di 25 anni, ha sparato 6 colpi di pistola contro Reagan. Uno di questi è rimbalzato sulla limousine presidenziale e ha colpito il polmone sinistro di Reagan, sfiorando il cuore di pochi centimetri. Così la moglie Nancy, il figlio Michael e Michael Deaver, suo collaboratore. Ronnie era bianco, terreo. Non avevo mai visto nessuno così. Aveva una cosa sul naso che lo aiutava a respirare. C'era tanto sangue. A un certo punto aprì gli occhi. Mi vide e mi disse: Nancy, ho dimenticato di abbassarmi. Papà aveva sempre la battuta pronta. I chirurghi che lo dovevano operare disse: spero che siate tutti repubblicani. Oppure quell'altra: Nancy, ho dimenticato di abbassarmi. Lo disse davvero. Credo che con le sue battute volesse far sentire tutti a proprio agio. Fu il momento in cui vedemmo il vero Reagan. Lo vedemmo per ciò che era dentro, per quella sua incredibile capacità di mantenere il buon umore anche in una situazione simile. 11 aprile 1981. Dopo soli 12 giorni, Reagan fa ritorno alla Casa Bianca. Solo i suoi parenti ed amici più intimi si rendono conto di quanto sia uscito trasformato da questa esperienza. Così il ricordo dello storico Richard Norton Smith e poi Edmund Morris, biografo di Reagan. Poco dopo l'attentato, Madre Teresa venne alla Casa Bianca, senza fanfare né ricevimenti, per un incontro privato con il presidente. Al termine del breve colloquio, Madre Teresa disse a Reagan: Dio ha un disegno preciso su di lei, ma c'è anche molta sofferenza. Reagan capì che la sua vita era stata risparmiata per essere messa al servizio di Dio. Da quel momento divenne molto più devoto e animato da spirito evangelico. Si vedeva che i suoi discorsi erano più lenti, i suoi pensieri più meditati. Aveva sempre qualche esitazione, non era più veloce come una volta. Si può dire che da quel momento e per il resto del suo mandato andò sempre peggiorando. Un declino fisico e mentale inesorabile. 28 aprile 1981. A 4 settimane dall'attentato, il Congresso tributa a Reagan, che ancora non si è completamente ristabilito, un'accoglienza da eroe. Grazie. Grazie. Sono certo che non mi chiederete un bis. Signor Presidente, distinti membri del Congresso, miei cari concittadini, signore e signori, non trovo parole per esprimere il mio più sentito apprezzamento per l'accoglienza che mi avete riservato. Sono venuto qui oggi per parlarvi del nostro programma economico e del perché ritengo essenziale che il Congresso conceda la sua approvazione. Eccolo lì, un uomo mezzo morto da solo davanti al Congresso degli Stati Uniti. Un uomo sopravvissuto per miracolo a un gravissimo attentato. Torna e cosa fa? Chiede sostegno per le sue misure economiche. È un colpo di teatro degno di un attore consumato. Voti a favore 238. Voti contrari 195. Era la voce di Christopher Matthews, assistente del presidente. La soddisfazione personale per quella vittoria lo spinge a dire: ho ottenuto la più grande vittoria politica dell'ultimo mezzo secolo. Il grande comunicatore ha vinto ancora. Reagan è riuscito a convincere anche alcuni democratici a schierarsi dalla sua parte e ha ottenuto la maggioranza. Ma con la legge voluta da Reagan, che non prevede tagli alle spese, l'America rischia di dover affrontare il deficit economico più grande della sua storia. I consiglieri economici di Reagan spingono per tagliare almeno le spese per lo Stato sociale e per la difesa, ma Reagan non ne vuole sapere. Caspar Weinberger, ministro della difesa americano negli anni Ottanta, e poi Luke Cannon, biografo di Reagan. Se c'era da scegliere tra il riequilibrio del bilancio e un aumento della potenza militare, Reagan non aveva dubbi, sceglieva per la difesa. Su questo punto non ha mai cambiato idea. Reagan poteva ridurre il debito, poteva ridurre i costi del welfare, eppure non lo fece. Non volle farlo perché ciò avrebbe minato la sua immagine, la sua popolarità. E lui non voleva. Una decisione fatale. Reagan non avrà mai più un'altra opportunità per portare il bilancio in pareggio ed evitare deficit sempre più disastrosi nel decennio a venire. Nel 1981 l'economia americana tocca il suo minimo storico. A novembre molti degli operai che hanno votato in massa per lui sono disoccupati. Ronald Reagan è in vacanza nella villa dell'attrice Claudette Colbert. L'America intanto è inquieta. Della ripresa promessa non c'è traccia. Per Reagan, che si è candidato alla presidenza come il salvatore di un'America in declino, arrivano le prime critiche. Un giornalista scrive: mentre l'America soffre la fame, il presidente se la spassa nel lusso. Ma le critiche peggiori sono per Nancy. La stampa non le perdona i vestiti fatti su misura e costosissimi, lo sfarzo dei ricevimenti, i suoi amici milionari e neppure la sua decisione di spendere $210,000 per delle porcellane preziose. Gli effetti della crisi si fanno sentire sempre più acuti in tutto il paese. Gli altissimi tassi di interesse costringono i contadini a lasciare le proprie terre. Nelle città cresce il numero dei senza tetto. Molte imprese chiudono. La disoccupazione raggiunge la punta massima dai tempi della Grande Depressione. Ma Reagan sembra fermo sulle sue posizioni. Il presidente scrive: sono certo che la ripresa economica ci sarà perché ho fede in quei tagli e nel popolo americano. Ma è proprio il popolo americano a non avere più fiducia in Ronald Reagan. Beh, forse Reagan farebbe meglio a leggere di più i giornali. E perché non viene a fare una visita all'ufficio di collocamento e non si mette in fila con noi? Il sogno americano è ormai un incubo. È finito. Nei primi due anni dell'amministrazione Reagan, insomma, il sogno americano sembra essersi infranto. Anche le tute blu, cioè gli operai che sono stati i suoi grandi sostenitori, si sentono traditi dalla sua politica economica e cominciano ad abbandonarlo. E la sua politica estera viene criticata sia in Europa che negli Stati Uniti. Per Reagan, dunque, le chance di ottenere un secondo mandato si fanno sempre più remote. Ma per lui la vera sfida è quella di sempre, salvare il mondo dal comunismo e dall'Unione Sovietica. Nella storia dell'Unione Sovietica, dai tempi della rivoluzione fino all'attuale dirigenza, non c'è nessun leader che non abbia ribadito in ogni occasione, in ogni congresso, la sua ferma determinazione a promuovere la rivoluzione globale e a diffondere nel mondo il socialismo reale. Credo quindi che chiunque abbia a che fare con loro, che sogni una distensione, debba sempre tenere presente che per ottenere quello che vogliono, i russi sono pronti a ricorrere alla menzogna, all'omicidio, all'imbroglio. Reagan non vuol sentir parlare di distensione. Negli anni 70 ben tre presidenti prima di lui hanno percorso la via dei trattati bilaterali come alternativa alla strategia della minaccia nucleare. Eppure proprio quei trattati hanno permesso tanto all'America quanto all'Unione Sovietica di costruire migliaia di nuove testate nucleari. Reagan non aveva paura del monolite russo. Lui odiava la Russia dal profondo del suo cuore. Anzi, direi che questo odio verso il totalitarismo sia stato l'unico sentimento fortemente negativo in tutta la sua vita. Aprile 1981. Reagan approva nuovi aumenti alle spese militari. Intende negoziare una riduzione degli armamenti solo dopo aver raggiunto una posizione di forza. Il suo motto è «costruire per smantellare», ma dietro questo slogan c'è qualcosa di molto più ambizioso. Così Richard Allen, allora consigliere per la sicurezza nazionale. Reagan non voleva scatenare una corsa al riarmo, solo che se qualcuno l'avesse iniziata, lui non voleva arrivare secondo. Questo era il messaggio che voleva far arrivare ai russi. Voleva costringerli a fermare la loro corsa al riarmo. Durante la sua campagna elettorale, Reagan ha detto ai giornalisti che l'economia sovietica non può sostenere una corsa al riarmo. William Casey, il nuovo direttore della CIA, conferma questa analisi. Reagan e Casey hanno deciso. Vogliono portare l'Unione Sovietica al collasso. Reagan intravede un'opportunità storica di colpire al cuore l'impero sovietico. In Polonia, Solidarnosc organizza scioperi e manifestazioni per la libertà. Quando il governo polacco dichiara la legge marziale, Reagan decide di intervenire in appoggio a Solidarnosc. Il 7 giugno dell'82 Reagan incontra Papa Giovanni Paolo II. Entrambi nell'81 sono scampati a un gravissimo attentato. Entrambi sono fermamente convinti che Dio li abbia chiamati a una missione speciale. Il Papa chiede alla Chiesa polacca di fornire a Solidarnosc una rete sotterranea di supporto. Reagan, da parte sua, impone sanzioni economiche e ordina alla CIA di minare il governo polacco e sostenere Solidarnosc. Finisce qui, per oggi, la storia di Ronald Reagan, a cui dedicheremo una seconda puntata domani, come sempre, a cura di Marina Milone.